voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Benito Guerra, la forza della ricerca, di Alessandra Scaglioni. Robur è un'azienda italiana che fa sperimentazione e ricerca e produce sistemi di riscaldamento innovativi, con forte risparmio energetico. Ha sviluppato negli Stati Uniti una tecnologia su cui aveva lavorato anche Albert Einstein. Lavora con il governo olandese e con la società del gas francese. A guidarla c'è Benito Guerra, con la moglie e i figli. Ed è stato proprio lui a far iniziare la storia di questa azienda nel 1956. Avevo 17 anni, non avevo molte prospettive di ulteriori avanzamenti dove lavoravo. L'azienda era una fabbrica di macchine elettrocalcolatrici Everest, che poi fu acquisita dalla Olivetti. E io avevo già fatto la massima carriera che potevo fare, ero già diventato capo reparto e non avevo molta possibilità di andare avanti. Allora decisi di mettermi proprio facendo minuterie metalliche. Mi sono accorto presto che con i pochi mezzi, le poche macchine, la poca esperienza che avevo, fare minuterie metalliche era una gara troppo dura. Allora mi guardai, in quegli anni era arrivato il metano, da Cortemaggiore a Lodi, la prima città che fu metanizzata come rete distributiva. Era una cosa completamente nuova, mi sono documentato, ho scoperto che i Becucci Bunsen che occorrevano per bruciare il gas venivano quasi tutti dall'Inghilterra. E allora, come i giapponesi e i cinesi in seguito, io ho copiato questi Becucci. Mi sono fatto alcuni corsi sulla combustione del gas, mi sono letto un po' di libri e ho imparato a produrli sulle richieste dei costruttori di scaldabagni. La partenza ricorrendo al credito, l'arrivo dei primi collaboratori. L'azienda cresce e nei 13 anni che vanno dal 1956 al 69, Robur diventa leader di mercato. Produce Becucci che vanno in tutta Europa, ma alla fine degli anni 60 l'azienda è costretta a ristrutturarsi. E nasce una nuova tecnologia che fa morire i Becucci, la nuova tecnologia si chiamava bruciatori multigas. Per fortuna abbiamo avuto la prima crisi, perché c'è da dire che ogni crisi a noi ha fatto fare un salto di qualità e di conoscenza. Perciò abbiamo dovuto studiare in fretta e furia un bruciatore multigas e abbiamo capito che l'importanza di avere un laboratorio di ricerca. Siamo negli anni 60 e allora lì decidemmo di fare un importante laboratorio di ricerca con dei tecnici presi dalla produzione, fra i migliori della produzione, e sviluppare molto l'ottimizzazione dei prodotti che c'erano. E questo ci ha portato nell'arco di 5 anni ad essere costruttori di bruciatori fra i più evoluti sul mercato. Adesso Robur produce bruciatori, ma un'altra nuova produzione è dietro l'angolo. I generatori di aria calda. Fornire di componentistica i costruttori di caldaie ci andava un po' stretto però, perché una volta che siamo diventati leader, tecnologicamente parlando, di bruciatori, dovevamo aspettare l'evoluzione delle caldaie, che allora erano in ghisa, erano cose ancora molto tradizionali. Allora io frequentavo a livello mondiale tutte le fiere, i simposi, le conferenze, e ho visto un prodotto che non c'era in Europa ed era in America, ma non era adattabile al mercato europeo. E questi erano generatori di aria calda. Allora ho preso dei deprianto, ho fatto una riunione, propongo di metterci a costruire generatori d'aria calda e chiedo: c'è qualcuno che ne sa qualche cosa? Nessuno sapeva niente. Allora possiamo fare veramente una cosa nuova, perché non c'è il retaggio di copiare quello che c'è. È una strada un po' più faticosa, però l'innovazione è meglio farla radicalmente quando si fa, secondo noi. E studiamo bruciatore, studiamo generatore d'aria calda, però in un'ottica europea, cioè forte risparmio energetico, perché siamo già alla fine degli anni 60 e si incomincia già a intravedere che l'energia non si può usare come veniva usata allora negli Stati Uniti. Allora noi ci siamo dati l'obiettivo di farlo esteticamente bello ed energeticamente più efficiente di quelli che facevano negli Stati Uniti. L'offerta è nuova e all'inizio, per superare le diffidenze da parte dei rivenditori, l'azienda prova anche a vendere direttamente ai consumatori. Quando il mercato si è assestato, si rivolge anche ai distributori e ai grossisti. Robur ha un prodotto finito da distribuire, i generatori di aria calda, e sta per avere anche un nuovo obiettivo. Noi siamo diventati leader di questo prodotto, ma non volevamo far concorrenza ai clienti dei bruciatori, cioè caldaie e scaldabagni. Perciò non avevamo molto spazio per allargarci. Avevamo forti competenze nel settore del gas, ma eravamo molto stagionalizzati, cioè si vendeva solo in autunno. Allora io cercavo un prodotto che ci consentisse di vendere anche in primavera. Il prodotto ideale sarebbe stato un condizionatore che però utilizzava la nostra competenza del gas. L'unica fabbrica al mondo che faceva refrigeratori, condizionatori che funzionavano, erano alimentati a gas, era un'azienda del gruppo Electrolux svedese, sita in America, a Evansville, nell'Indiana, e lì era l'unica fabbrica che sapeva fare i chiller, i refrigeratori funzionanti a gas anziché energia elettrica. Era il complemento ideale della nostra strategia perché il gas destagionalizzava, in più ci faceva entrare nel settore del condizionamento, da una nicchia non molto frequentata, perciò più percorribile per una piccola azienda. Benito Guerra per 5 anni corteggia Electrolux per avere un brevetto. Non lo ottiene. Al 5° anno, quando ci siamo incontrati a New York a un Expo, gli ho chiesto ancora la stessa cosa e loro mi hanno detto: ma perché non compra l'azienda a questo punto? Io sono rimasto stordito qualche secondo, poi gli ho detto: perché non la conosco, non so com'è. Ma se vuole domani mattina possiamo andare a Evansville, nell'Indiana, e gliela facciamo vedere. E io ho detto: va bene. E la mattina dopo siamo alzati alle 4, siamo andati a Evansville e mi ha fatto vedere una fabbrica da sogno. Perché c'è da dire che l'Electrolux è leader nell'ambiente di lavoro, nella ricerca, tutto. Una fabbrica meravigliosa, però enorme per le nostre dimensioni. Noi avevamo un'azienda qui di 5.000 metri quadri, quella fabbrica era 300.000 metri quadri. All'uscita mi chiedono se siamo interessati ad acquisirla. Io non so perché, ma avevo preso sul bilancio lo stato patrimoniale. Siccome non avevo coraggio di dire no, è troppo grossa, quanto costa, così mi sembrava non appropriato, gli ho detto: guardi, questo è il nostro bilancio, questo è il nostro stato patrimoniale, me lo dica lei se possiamo farlo. Era la fine di gennaio del 1991. A maggio, trattative e pratiche erano concluse. La fabbrica acquistata. Da lì è cominciata un'avventura fantastica. È stata quella che oggi è la nostra salvezza. Oggi noi abbiamo una tecnologia che ha una barriera all'ingresso incredibile. Ed è il fatturato principale, anche il fiore all'occhiello dell'azienda. La famiglia Guerra prende possesso dell'azienda e prova a capire come sviluppare il nuovo prodotto. Noi da subito abbiamo incominciato a studiare queste cose e nell'archivio storico dell'azienda c'erano 2000 copie di brevetti che avevano fatto dal 1902 fino al 91. C'erano decine di migliaia di ricerche sulle cose, sulle varie cose che avevano valutato. E abbiamo capito che questa tecnologia non solo intuitivamente ma anche scientificamente era molto valida, perché io ho la fortuna di avere fra i 5 figli, il primo figlio è un fisico delle particelle e l'ho invitato a passare un periodo in America in questa biblioteca di sapienza. Lui è stato un anno, alla fine, dopo aver studiato questi documenti, tutte queste cose, fra i quali 3 brevetti di Albert Einstein, che aveva fatto questi studi per l'Electrolux nel 1927-1930, quando aveva già preso il premio Nobel, quando era già famoso, perciò era molto interessato all'energia e questo era un sistema per risparmiare energia. Mio figlio alla fine di questo periodo sabbatico mi ha detto: papà, questa tecnologia ha delle possibilità incredibili. E cosa che io non sapevo, mi ha detto: questa tecnologia, se al posto di fare acqua fredda gli si fa fare acqua calda, è una super caldaia super efficiente. Ti interessa che io la sviluppi? E io cosa ho fatto? Gli ho detto: hai carta bianca. La pompa di calore potrebbe essere una grande innovazione tecnologica. Robur prova a chiedere l'aiuto del governo e delle aziende distributrici del gas americane e lo ottiene. Il Dipartimento dell'Energia ci propose un piano di sviluppo per accelerare questa ricerca per arrivare in 3 anni alla pompa di calore ad assorbimento a gas, è chiamata così. Ci finanziarono con 4 milioni e 600 mila dollari a fondo perso perché eravamo una small business per accelerare la ricerca. Lo scopo era convincere i grandi player che questa tecnologia è premiante, che era possibile, perché nessuno l'aveva fatta seriamente. I frigoriferi si facevano con questa tecnologia, non si facevano i condizionatori. Allora noi avevamo lo scopo di start-up praticamente in questa tecnologia. Abbiamo avuto successo, abbiamo rispettato tutte le tappe fino al 99, dove abbiamo potuto consegnare 8 macchine al Dipartimento dell'Energia americano. Sono i prototipi. A questo punto il laboratorio di ricerca si trasferisce in Italia. Abbiamo mantenuto là comunque una sede, però il laboratorio, che è il gruppo di tecnici che aveva cominciato a mettere assieme Marco, mio figlio, ha preso forma a Zingonia e abbiamo fatto un laboratorio super attrezzato, l'unico al mondo che può fare prove così raffinate e anche così ampie sulle pompe di calore ad assorbimento a gas. Intanto negli Stati Uniti sono nati 5 progetti con università e poli tecnologici per rilanciare la produzione industrializzata del prodotto. In Italia Robur prosegue l'industrializzazione in proprio e le pompe di calore ad assorbimento a gas iniziano ad andare in tutto il mondo. La presentazione di questa pompa di calore avvenne alla Triennale di Milano in un convegno che abbiamo promosso a livello mondiale per presentare la macchina che effettivamente funzionava, eccetera, eccetera. I primi ad essere incuriositi furono gli olandesi, che fecero un impianto pilota per case sociali dove gli inquilini non possono spendere molto il riscaldamento. Perciò l'Olanda prova in questi 372 appartamenti, prova 16 delle nostre pompe di calore più pannelli fotovoltaici, li monitora per un po' di anni, fin quando l'anno scorso il governo olandese finanzia l'acquisto delle pompe di calore praticamente per il 90% del prezzo listino della macchina. Detto questo, incominciano a interessarsi anche le grosse fabbriche di caldaie. La prima e la terza fabbrica europea di caldaie si interessano e noi oggi forniamo loro macchine con il loro logo, con i loro colori, però prodotte interamente in Italia. Il fatturato di Robur nel 2010 è stato di 28 milioni di euro. Per il 2011 è prevista una sensibile crescita. Il 65% del fatturato è rappresentato dalle pompe di calore ad assorbimento a gas, mentre il 35% dai generatori di aria calda. Il tema di maggiore interesse è ovviamente quello della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico. In cosa consiste il vantaggio della pompa di calore elettrica e quella gas? Quella elettrica usa energia elettrica, che però è prodotta col gas e la metà del calore viene buttato via. Invece quella che utilizza direttamente il gas evita di far girare un motore, far girare un compressore. È la cosa che aveva affascinato molto Albert Einstein e Leo Szilard, che energeticamente si saltavano due passaggi molto costosi. E il risparmio si misura fra il 35 e il 40%. Perciò il risparmio è enorme. Se si pensa che vengono finanziate le caldaie a condensazione perché danno 4-5 punti percentuali in più di rendimento, noi ne diamo 40-50 punti percentuali di rendimento in più. C'è un limite alla diffusione, primo perché noi non abbiamo un marchio noto alla popolazione, secondo perché, questa è una difficoltà effettiva, abbiamo una potenza di queste macchine che parte da 35 kW. 35 kW vuol dire con le case moderne 500-600 metri, con le case di 20 anni fa 150-200 metri, cioè non è una macchina da appartamento, è una macchina da una villa fino a una città. Ma anche in questo caso, dalla ricerca e dalla sperimentazione sta arrivando un nuovo prodotto, dalla collaborazione con Gaz de France. 3 anni fa ci hanno affidato il progetto di sviluppare questa macchina però per l'uso domestico, cioè non più 35 kW ma 18 kW. E ci hanno aiutato molto a sviluppare i prototipi. Oggi ci sono in funzione presso i loro laboratori 2 pompe di calore da 18 kW destinate all'uso domestico. Queste suscitano moltissimo l'interesse perché qui non si tratta più di farne a migliaia, ma si tratta di farne a centinaia di migliaia, cosa che noi non siamo in grado di fare. Allora ha ripreso forza una delle nostre strategie, che una ricchezza di questo genere non la possiamo tenere tutta per noi e non saremo neanche in grado di sfruttarla, perciò cediamo la licenza di costruzione. Cioè noi oggi stiamo negoziando con alcuni player la cessione di licenza di produzione di queste macchine. Le aziende interessate sono quelle di molti paesi europei, ma non quelle italiane. Noi oggi siamo in stretto contatto e anche supportati da tutte le aziende distributrici del gas europee, le più grandi, dalla E.ON a Gaz de France, a British Gas. Italia? Niente. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.